Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Ce l'abbiamo fatta, siamo pronti operativi dal Groovemaster Studio per dare il via al soundcheck, appuntamento numero 386 della prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto da Gegé Telesforo e ancora una volta buonasera ai miei fedeli collaboratori, indispensabili ormai perché sono loro che riescono a tenere in ordine l'archivio. Abbiamo raggiunto un patto di stretta alleanza con la... Adesso la faccio innervosire con la signorina Silvia Barba. Lei è ancora signorina? Io sono ancora signorina. Buonasera Gegé, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. E il professor Francesco Tromba. Ecco, ciao a tutti. Benvenuto Francesco, come va? Bene, grazie. Tu sì, come stai? Finalmente, abbastanza bene. Devo dire un po' sottotono perché sento la primavera fortemente. Quindi inizio ad avere anche allergie, cose del genere. Ma allergie no, proprio mi sento proprio sottotono, proprio da un punto di vista fisico. Dovrei prendere dei tonici, non so se vitamine o fare qualcosa di diverso. Invece noto che voi, probabilmente perché appartenete a un'altra generazione, vi trovo in forma, soprattutto la barba. Ma si sa che per le donne quando arriva la primavera scoppiano proprio dei movimenti ormonali notevoli, no? Occhio a quello che dici. Perché... Non ho detto niente. No, Mi sto contenendo e dicendo delle cose scientifiche. Quote rosa del soundcheck, quindi poi tutte le donne si rivolgono a me dicendo cosa ti ha detto Gegé Telesforo, allora, difenditi. Io ho fatto una domanda e vorrei una conferma. È vero che quando arriva la primavera voi donne sentite un movimento ormonale non indifferente? Succede qualcosa? È il sole, la vitamina D. È il sole, la vitamina D. Quindi, ma esattamente come si trasforma questo movimento ormonale? Da un punto di vista proprio... Beh, io comincio a sorridere di nuovo, esco da un letargo che l'inverno comunque mi costringe a sostenere, esco, vado ai concerti, incontro persone e faccio cose. Chiederò conferma a Justin di ecco, questo. Occhio a quello che dici e sono già due. Va bene, siamo pronti per il soundcheck. Questa sera tantissime novità, anzi una puntata intera per presentare delle nuove pubblicazioni molto interessanti. Ho passato tutta la settimana insieme a Francesco Tromba e a Silvia una settimana di consulti su che cosa scegliere da proporre per la puntata di oggi, perché per quella di domani ci siamo organizzati. Sì, non ci siamo riusciti a rendere il nostro tributo ad Al Jarreau perché ormai è passato un mese dalla sua scomparsa e quindi a un mese dalla sua scomparsa domani lo celebriamo così come merita uno dei protagonisti della black music, ma della musica di tutti i tempi. Quindi domani per tutti coloro che hanno amato, ma anche per i ragazzi che non hanno conosciuto le gesta e le imprese eroiche di un vocalist, di un musicista grandioso come Al Jarreau, domani qui al Soundcheck parleremo della sua vita, della sua attività e ascolteremo brani che hanno segnato anche la nostra vita, o no? Sì, la vita di tutti, perché comunque è stato ringraziato veramente da tutti gli artisti e anche in maniera trasversale, dal rock all'hip hop, all'R&B, al jazz. Ecco, bisogna anche scegliere il giorno giusto per morire, no? Per essere celebrato nel migliore dei modi. E Al Jarreau ha scelto il giorno proprio della consegna dei Grammy Award, però purtroppo lo ha fatto troppo a ridosso. Se fosse morto qualche ora prima, probabilmente avrebbero organizzato un tributo degno del suo nome. Fatto sta che soltanto Gregory Porter lo ha salutato durante la cerimonia. Beh sì, quando ha preso il premio per miglior album vocale, Gregory Porter, oltre a ringraziare tutta la sua band, alla fine ha detto Al Jarreau, we love you. Però ho notato che sono pronti con le pubblicazioni, ma noi parliamo domani di Al Jarreau, oggi parliamo di tante novità e allora direi di ascoltare subito questo signore. Se non lo conoscete, noi ve lo presentiamo, si chiama Jeb Loy Nichols, il brano è Regret. come spesso succede, siamo in anticipo con i tempi, perché questo album nuovissimo di un veterano come Jeb Loy Nichols, il brano era Regret, l'album si intitola Country Hustle, sarà pubblicato fra qualche giorno, ma noi lavoriamo sempre in anticipo per gli appassionati di musica che ascoltano ormai da 4 edizioni il soundcheck di Radio 24. Che cosa possiamo raccontare di Jeb Loy Nichols? Lui fa un percorso molto particolare, nel senso che inizia dagli Stati Uniti, lui è nato nel Wyoming, poi però dopo aver fatto il suo esordio discografico viene abbandonato dalla sua etichetta perché non vende dalla mamma. Non vende assolutamente nessuna copia quasi. Da allora si trasferisce in Galles, cerca una vita un po' diversa e inizia ad avere successo. Certo, posso dire una cosa, Francesco, questo dal Wyoming, che un paese veramente, devo dire, non fra i più quotati negli Stati Uniti, no? Sì, diciamo non è proprio fantastico. Ecco, non è dal Wyoming non vende dischi lì e se ne va in Galles. Pensa tu. Questo che grande idea. Poteva andare a Londra direttamente, no? Vabbè. Però fa sempre musica folk, country, quindi ha bisogno della campagna, non può stare in città. Ah, è vero, anche qui poteva venire qui da noi. Forse sì. Sarebbe venuta bene. Comunque. Allora, Jeb Loy Nichols, ma quanti anni ha Jeb Loy Nichols ormai? È più grande di me. Tra i 50 e i 60, non siamo riusciti a rintracciare. Tra i 50 e 60, quindi siamo più o meno coetanei. Sì, più o meno. Infatti sento delle affinità. Ma tu sei più bello. Ti ringrazio. Jeb Loy Nichols, direi allora di ascoltare un altro brano, anche questo una versione radio edit, perché come un bravo bluesman i brani hanno delle durate corpose, però ha capito bene che per passare in radio forse qualcuno doveva editare le sue composizioni. Il brano si intitola Come See Me, qui al soundcheck di Radio 24, Jeb Loy Nichols, e ci piace tantissimo. Sound check. Il suono della musica. We have a dream. Che cosa ci ricorda Tromba? We have a dream. Martin Luther King, ma qui a cantare We Have a Dream non è un uomo di colore, non è un afroamericano, bensì un uomo pallido abbastanza, perché è nato e cresciuto in una terra dove non batte mai il sole, o perlomeno batte per pochi mesi all'anno. E vi stiamo parlando di un musicista, compositore e vocalist chiamato Bernhoft, che arriva direttamente dalla Norvegia. Sì, lui è originario di Nittedal, però appunto ha sempre avuto la passione per la musica nera, per l'R&B. Ecco, e allora si trasferisce a Oslo. No, è stato anche a New York per un anno e mezzo circa, però è stato il primo non americano ad essere nominato nella sezione R&B dei Grammy Award dagli ultimi 20 anni, quindi comunque ha avuto il riconoscimento ufficiale. Lui, nonostante sia un norvegese pallido con gli occhi azzurri, fa musica nera e la fa anche molto bene. L'album è molto carino, molto divertente. Divertente, poi la collaborazione con G. Scott secondo me gli ha dato un po' quella visibilità che meritava, perché io lo ricordo qualche anno fa quando faceva un tour one man show in cui lui suona tutti gli strumenti, è bravissimo con i loop, si organizza assolutamente le sue canzoni, è molto bravo, e tra l'altro è comprensibile il fatto che poi anche gli americani riconoscano in lui delle qualità, perché comunque ce le ha. Sì, ve lo ripeto, si chiama Bernhoft questo signore, anche per lui un album recentissimo che noi siamo andati a procacciarci per voi, per il vostro piacere, ma anche per il nostro. Naturalmente tutte le informazioni sul nostro Airplay le troverete seguendo le nostre pagine, che ne so, le informazioni su Twitter, dove siamo molto attivi e dove siamo anche molto seguiti proprio dagli artisti internazionali che ci ringraziano per quello che stiamo facendo per loro. Ma anche sulla nostra pagina Facebook, dove arrivano numerosi complimenti e anche alcune critiche. Fra le critiche che abbiamo ricevuto ultimamente ce n'è una che mi ha molto divertito, di un signore che naturalmente è un nostro, posso dire, un nostro fan, un nostro radioascoltatore affezionato, che però a un certo punto se l'è presa col signor Tromba. Esattamente che cosa vuole da Tromba, Silvia, questo signore? Ha scritto un messaggio molto Come si chiama? Diciamo almeno il nome. Lui si chiama Roberto. Roberto, ecco Roberto, noi ti ringraziamo perché noi vogliamo migliorare e anche Tromba deve migliorare e quindi vorrei che Silvia riassumesse un po' il senso della letterina che ci ha inviato Roberto. Ci ha inviato una mail in cui spiegava, precisando che non c'è nulla di personale contro Tromba. Certo. Non conoscendolo personalmente, quindi, non si dava. Non ce l'ha con Tromba, no, perché è calabrese. No, assolutamente. Però ce l'ha con Tromba perché si sente una dizione calabrese, giusto? Lo definisce una tragedia. Oddio. Grazie. Prego. Cioè, lo definisce innanzitutto un ottimo ragazzo, non sto giudicando la persona, certo. Ma alla radio un disastro, ormai è molto tempo che è lì, eppure ha sempre la voce tremolante del primo accaparrato alla porta. Del primo accaparrato, cioè, alla come porta. Come se l'hai preso, diciamo, per la strada. Ma io l'ho preso per la strada, Tromba. Questo dovrebbe apprezzare Roberto, che io prendo ragazzi dalla strada e li porto in radio, perché la cosa che vado poi cercando è la passione e la preparazione. E credo che in questo Francesco non abbia nulla da invidiare a nessuno. Sì, io in realtà stavo facendo l'autostop per arrivare in Calabria, poi tu mi hai raccattato e mi hai portato in studio. Hai detto te che sei, sono un giovane calabrese appassionato di musica. Ah, meravigliosa. Senti, ma tu te la sei presa, Francesco, per la no, critica? No, assolutamente, anzi in realtà la vedo come un modo per migliorare. Magari sotto un certo punto di vista può anche avere ragione, nel senso che posso sicuramente fare ma di meglio, sì, di perché più. Tu, oramai, tu parli così, sei naturale, no? Come parli nella vita, parli in radio, però potresti anche impostarla un po' la voce, fammi sentire. Come si fa? Beh, adesso ne parliamo, facciamo una prova subito dopo. Allora, Burnout con The Morning Comes. Soundcheck, il suono della musica. Che ti trai? Si intitola Wolf questo brano, selezionato dal repertorio nuovissimo di un organico, di un collettivo spinto potrei definirlo, è chiamato e intitolato Chinese Man. L'album è notevole, io lo trovo interessantissimo, però ho dovuto fare una scelta, ovvero scegliere musica più o meno apprezzabile da tutti oppure cose più spinte che a me sono piaciute ma che rischiavano di metterci in difficoltà proprio con la direzione della radio. Allora ho scelto qualcosa di più morbido, ho fatto bene? Sì, va, a me piacciono tantissimo loro perché sono veramente fuori di testa, sono dei matti. Sono fuori di testa e poi un suono, oserei definirlo, non so se a Silvia piace, ma un suono cinematografico. Anche, però loro, guarda, in questo album si sono voluti sbizzarrire intitolandolo Shikantaza, che vuol dire che è una meditazione senza oggetto, contenuto, quindi alcuni brani sono anche un po' ipnotici, questi che stiamo ascoltando. Ipnotici, proprio, evocativi, no? Ci sono molte campionature prese da album proprio tipicamente orientali e poi combinate con tutti gli elementi della musica contemporanea dell'hip hop e viene fuori un album interessantissimo. Completo, se vogliamo, no? Perché c'è anche una gamma pazzesca di suoni, per cui alla fine è piacevole ascoltarli. E è un collettivo formato da un trio di ragazzi fuori di testa, ha ragione il Tromba. In questo il Tromba se ne intende, eh? Qualsiasi critica possiamo fare alla sua voce, alla sua dizione, ma non... Ecco, torniamo alla voce del Tromba. Allora, è un po' come nella musica. A me, per esempio, piace la voce naturale. Ho parlato a lungo con una grande cantante italiana che è Maria Pia De Vito e anche Maria Pia mi ha detto che non sopporta più di tanto il suono, per esempio, della voce del mondo lirico. No? Proprio la vocalità tipica del mondo lirico, proprio perché non capisce le parole nella pronuncia. Allora noi cantanti contemporanei ci rifacciamo alla voce naturale, quindi anche per chi fa radio devo dire io apprezzo la voce naturale più che la voce impostata da fine dicitore che cerca di affettare tutte le parole per essere comprensibile e nazional popolare. Quindi io Tromba ti apprezzo molto anche. Grazie. Perché la voce è unica e la tua voce nella sua bruttezza è riconoscibile e credo che questa sia una cosa importante. Beh, ti ringrazio, grandissimo. Sì, ma poi ci si abitua a tutto, no? quindi io mi sono abituato. Anche le cose brutte possono piacere. Però fine. Anche tu potresti studiare, no? Potresti impostarla la voce, fammi sentire, fammi una presentazione tipo anni 70, anni 80. Buonasera a tutti i radioascoltatori, io sono Francesco Tromba. Ma questo è come... è uguale. Questa è la mia voce. Va bene, Chinese Man con Good Night chiude la prima parte del soundcheck. Non vedo l'ora di arrivare alla seconda parte per presentare una delle band del momento, perlomeno per me. Sono impazzito. Lo vediamo. Sono innamorato. Tromba, mi sono innamorato. Ora è primavera anche per te. Delle sorelle Jackson. Ma mi devo rimettere in forma. Devo trovare qualche tonico, assolutamente. Chinese Man con Good Night al soundcheck di Radio 24. Ci risentiamo subito dopo l'informazione con le sorelle Jackson, quelle che arrivano da Memphis, Tennessee. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio con Francesco Tromba, Silvia Barba e Gegé Telesforo. E finalmente siamo approdati alla seconda parte. Dico finalmente perché aspettavo questo momento con ansia. Sono orgoglioso di presentare agli appassionati di musica di Radio 24 una band che mi sta molto a cuore. Perché mi piace il suono, mi piace l'idea, mi piace la cosa che questi ragazzi arrivino proprio da Memphis, Tennessee, quindi né New York, né Los Angeles o Chicago, che sono le città di riferimento per la musica di oggi. E mi piace il fatto che questi ragazzi si rifanno al sound del passato, ma con un piglio assolutamente contemporaneo. Pensate che questo brano, intitolato Don't Give Up, come la celebre composizione di Peter Gabriel, ma non è quella, quindi non è una cover, è un brano originale, è stato realizzato su un solo accordo con il famoso call and response che si faceva una volta con le big band, quindi una delle sorelle Jackson. Io sono innamorato di tutte e due le sorelle. E una è pure una batterista, quindi non potrei fare a meno l'una dell'altra, cioè le vorrei tutte e due qui con me. Invitiamole, no? Io le voglio invitare, le sorelle Jackson. Comunque la band si chiamano Southern Avenue e anche il nome della band è già forte, è già una garanzia. E anche l'etichetta è una garanzia di sound, la Stax Records. Allora, che cosa stiamo parlando? La Stax Records, ladies and gentlemen, presenta Southern Avenue. Dicevo, una band contemporanea, il brano realizzato su un solo accordo con dei canoni tipici della musica nera e il sound che è una via di mezzo fra country, bluegrass, blues, rock and roll. È qualcosa di molto, molto moderno che poi sta anche nelle voci delle due sorelle Jackson. Beh sì, il timbro è molto contemporaneo, mentre la struttura poi del brano è quasi, come dire, si basa anche un po' sul tradizionale. Proprio. Arcaica. No, arcaica no, però insomma fonde tutte queste tradizioni che hai appena nominato. Poi la Southern Avenue è, oltre ad essere il nome della band, è anche la via dov'è la Stax Records, quindi c'è un riferimento a Memphis molto preciso. Quindi che cosa sarà successo? Si sono presentati questi ragazzi alla Stax, come vi chiamate? Ci chiamiamo... le sorelle Jackson, ma ci sono i Jackson 5, c'è Janet Jackson. Beh, in realtà tutto nasce da un chitarrista israeliano. Israeliano? Sì, è lui che ha creato la band, perché lui si è trasferito in America e da allora, diciamo, ha iniziato a girare in tour con la sua band e poi ha conosciuto una delle sorelle Jackson. E si è fidanzato? Non credo si siano fidanzati, però ha avuto l'illuminazione e quindi ha messo su questa band fantastica. Io pure mi vorrei fare illuminare dalle sorelle Jackson. Già sono affezionato a queste ragazze. Tra l'altro loro si formano in chiesa, quindi possono anche benedirti. Le famose sorelle Jackson, casa e chiesa. Southern Avenue, attenzione, mettete proprio a palla il volume delle vostre radio. Don't give up al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Da Memphis, Tennessee, con i Southern Avenue ci siamo spostati in Irlanda con la voce, il sound di James Vincent McMorrow. Che diavolo di nome, potrebbe fare quasi l'agente segreto, ma anche arrivare da una famiglia di produttori di cornamuse, il James Vincent. Beh, o anche di avere un allevamento di pecore. Anche, è vero, anche questo. Però hai capito la differenza? Quando tu presenti un artista, James Vincent McMorrow, non è come presentare Francesco Antonio Tromba, vedi che... Io ho un altro nome ancora, Francesco Antonio Rocco Tromba. Tromba, pure io ne ho tre. Eugenio Roberto Antonio Telesforo. Pensa tu. Che cosa avremmo potuto fare con questi nomi? Quello che facciamo. I nostri genitori. So. Sì, ma tu hai le virgole? No, me l'hanno levata. Prima ce l'avevo. Ti hanno pure tolto le virgole. Il cambio di residenza. Pure il mio nome. Senza virgole, quando devo mettere la firma su un documento ci vogliono 3 pagine. Sì, infatti. È un guaio. Invece la Silvia... Silvia. Ah, sì, basta, Silvia sì. Barba, pa, pum, e via. Diretta. Va bene, cosa sappiamo di James Vincent McMorrow? Beh, lui ha fatto parte, una sua canzone ha fatto parte del trailer per la 6ª stagione di Game of Thrones. Ti racconto un aneddoto, come gli è stato comunicato che la sua canzone sarebbe stata nella serie TV. Lui era al cinema... Stava sì, qui parliamo per... anche del sì. Trono di Spade, che è una delle mie serie preferite. Sì. Lui era al cinema, stava per iniziare il film, a un certo punto gli arriva un SMS da un numero sconosciuto in cui gli scrivono: ti piacerebbe che la tua canzone facesse parte della serie TV Game of Thrones? E lui risponde sì, ok, pensava fosse una presa in giro, ma in realtà poi il giorno dopo ha saputo con precisione che sarebbe stata la sua canzone. Sì, ma infatti nella sua musica c'è un po' di tutto, no? Si sente una venatura tipicamente anglosassone, no? Questo senz'altro, fuori dal tempo e dagli schemi, ma lo trovo anche molto contemporaneo, soprattutto nella vocalità, con questo falsetto molto pulito. Beh, in realtà è la prima volta che lo ascolto, quindi mi fido di voi. Ma ti devi fidare, senz'altro. Allora, eccolo qui, James Vincent McMorrow con Get Low, qui al Soundcheck di Radio 24, dedicato alla Silvia. Grazie. Prego, ciao. Soundcheck. Il suono della musica. Non l'ho fatto apposta, ragazzi, perché dopo James Vincent McMorrow al soundcheck arriva Gabriel Garzon Montano. Non so neanche come pronunciare il nome di questo artista, che risiede a Brooklyn, New York City, ma da quale famiglia proviene? L'hai fatto palesemente apposta, perché è evidente. Per complicarmi la vita. Sì, sì. A volte sai che bisogna scegliere gli artisti per l'airplay con i nomi più facili da pronunciare, quindi avrei dovuto eliminare dalla playlist e non fare ascoltare mai James Vincent McMorrow e Gabriel Garzon Montano. Vedi, continuo ad avere qualche difficoltà nella pronuncia dei due artisti. Lui ha proprio sangue misto, mezzo sudamericano, mezzo francese, forse c'ha anche una percentuale di pelle rossa di nativo americano dentro il suo sangue. Il suo disco è veramente bellissimo, si chiama Jardin, non so come pronunciarlo. Vedi, continua il problema. Però è molto bello, perché appunto riesce a mischiare, si sente proprio questo suo sound, questa sua passione per la musica a tutto tondo, perché ci sono degli elementi elettronici, degli elementi folk, degli elementi che sono più da songwriter, rock, pop, e poi l'etichetta con cui è uscito questo disco, che è la Stone's Throw, è un'etichetta che è una garanzia. Silvia, cosa ne pensi? Beh, noi l'abbiamo conosciuto, ti ricordi, con il suo EP di debutto Bichounet, che era il suo soprannome che la mamma dava da piccolo, e poi aprendo i concerti di Lenny Kravitz e poi, insomma, facendosi conoscere al grande pubblico, si è formato. Tra l'altro un suo brano è stato scelto da Drake, che lo ha campionato, insomma, un bel pastone di roba che lo ha portato ad essere davvero conosciuto ai più. Sì, questa è una cosa, devo dire, simpatica per gli artisti, quando realizzano un brano e poi si ritrovano una campionatura di una loro composizione, di una loro produzione in un album di un artista importante. È successo anche ad alcuni italiani di ritrovarsi brandelli delle loro composizioni, delle loro produzioni in album, per esempio, di Janet Jackson. Beh, quando questo è riconosciuto, accreditati sono questi artisti. Assolutamente sì, era una band che si chiamava credo Change, una cosa del genere, e uno dei compositori era Davide Romani, un bassista bolognese, e alla fine si sono ritrovati una campionatura di alcune battute in un album di Janet Jackson, e bellissimo. Questa cosa gli ha dato la possibilità anche di poter incassare un bel po' di diritti d'autore, ecco. No? Perché poi alla fine ti ritrovi compositore con Janet Jackson e Jimmy Jam e Terry Lewis, che erano i producer dell'album. Così, bello, non è male. Bello. Va bene, Direi allora di ascoltare ancora Gabriel Garzón Montano, album tratto da questo nuovo album, si intitola The Game. Soundcheck, il suono della musica. Sì, ci siamo quasi pronti per partire in tour con il progetto Fans Low Ride qui in Next con la voce di Alan Hampton, che purtroppo non sarà con noi in tournée, e quindi non vedo l'ora di ascoltare questa composizione cantata dalla bravissima Joanna Titters, che sta per arrivare. La prossima settimana Joanna sarà qui con noi e faremo anche una puntata del nostro soundcheck. Che bello, bello. Tromba, sei contento? Contentissimo, non vedo l'ora. Perché sei contento di incontrare Joanna Titters? Perché ho visto le foto, ecco. Oltre ad essere una gran cantante, È anche una bella ragazza. Bene, sarà un piacere anche per i miei musicisti andare in giro con lei. Certo. Comunque ti devo raccontare questa cosa, Tromba, tu forse non lo sai. Come sapete io ho degli amici in tutto il mondo, tra l'altro anche a Berlino. Ma c'è un Justin un po' no, dappertutto. Smettila. E mi hanno raccontato che questo brano, Next, era in un airplane nella radio di Berlino. Tra l'altro sono sentiti, loro parlano il tedesco perché ormai sono lì da qualche anno, ma capivano con un accento particolare questa cosa. France le raid di Je te laisse fort. Ah sì, va bene. Mi hanno chiamato subito. Va bene. Comunque siamo per partire. Io voglio ripetere, saremo in giro per club e teatri in Italia, partiamo il 29 di marzo dal Bad King Club di Perugia, il 30 a Roseto degli Abruzzi, 31 Cava dei Tirreni al Moro Jazz Club, poi a mattinata proprio a casa, provincia di Foggia, in un auditorium, facciamo una breve pausa, il 5 di aprile riprendiamo dall'auditorium Parco della Musica a Sala Petrassi, 6 aprile Bologna Bravo Caffè, 7 aprile il Torrione Jazz Club di Ferrara, chiudiamo l'8 di aprile al Blue Note di Milano. Fans Low Ride al completo con la voce special guest di Joanna Titters. Noi stiamo in chiusura, vi ricordo però che domani a partire dalle 19:15 sempre su questi schermi qui su Radio 24 la puntata sarà interamente dedicata a un campione di musica come Al Jarreau, scomparso proprio un mese fa, esattamente il 12 di febbraio. Quindi tutto il nostro affetto, il nostro amore per la grande musica di Al Jarreau qui al Soundcheck di Radio 24. Posso leggere un attimo il tweet di saluto di Cassandra Wilson ad Al Jarreau? Sì. Lei dice: Al Jarreau era un maestro improvvisatore, un narratore accattivante, sempre in grado di catturare il pubblico e tutti coloro con i quali ha condiviso il palco. Grazie Al Jarreau, ci sentiamo domani qui al Soundcheck di Radio 24. Ciao!